Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati alla nostra rubrica dedicata ai libri di economia. Oggi parliamo di un libro che si intitola La famiglia cristiana ed è scritto da Don Antonio Sciortino, che della rivista La famiglia cristiana è il direttore. Buongiorno Don Sciortino. Buongiorno a tutti voi. Ma uno ci si può chiedere cosa ci sta a fare un libro sulla famiglia cristiana in una rubrica di libri di economia. Ma il sottotitolo di questo libro è Una risorsa ignorata e in effetti, leggendo le pagine di questo libro, si ha proprio l'impressione di un testo che con l'economia vada molto a braccetto, perché è un esame della società italiana sotto il profilo sociale, sotto il profilo demografico, sotto il profilo economico, nella particolare prospettiva della famiglia. Quindi possiamo catalogarlo, Don Sciortino, tra i libri di economia? Beh, senz'altro ha a che fare moltissimo con l'economia, perché di solito si pensa oggi alla famiglia come un problema, mentre, come dice il sottotitolo del libro, bisognerebbe pensare alla famiglia come una risorsa che però è stata ignorata per tantissimi anni dai governi. Per cui la tesi del libro è che se i governi, tutti i governi, qui non faccio un problema di colore, di partiti, ma tutti i governi, riscoprissero la famiglia come una risorsa e soprattutto se investissero sulla famiglia, avremmo veramente dei riflessi positivi, ma molto positivi, anche dal punto di vista economico, perché investire sulla famiglia vuol dire avere veramente un plus valore, un qualcosa in più, un riverbero sociale anche dal punto di vista economico, perché la famiglia, che ha anche soldi in più da spendere, mette in moto anche l'economia. Ecco, il fatto che l'Italia sia un paese vecchio si capisce fin dalle prime righe, si dice siamo un paese dalle mille rughe dove ormai nascono pochi bambini, ma non ce ne preoccupiamo più di tanto. Nel mondo abbiamo il più basso tasso di natalità, che vuol dire il più basso numero di figli in rapporto alla popolazione. Il nostro è il paese delle vite fragili, disoccupati, precari, senza casa, poveri, bisognosi di assistenza, con alcuni tristi primati, e ancora sono ancora le prime righe di questo libro di Don Antonio Sciortino sulla famiglia cristiana. A partire dal 93, anno del sorpasso storico, per la prima volta nella storia dell'umanità il numero delle persone con più di 65 anni ha superato quello dei minori di 14 anni. E da allora le cose sono solo peggiorate, né ci rallegrano le prospettive per il futuro. Ecco, quindi, Don Sciortino, siamo una società vecchia, una società che quindi in questo modo non ha saputo dare un po' di speranza ai giovani e costruirsi un futuro che è fatto anche di numeri, che è fatto anche di famiglie che crescono, di famiglie numerose. Sì, siamo, come dicono i dati, un paese veramente vecchio. Siamo ai livelli più bassi per quanto riguarda la natalità, siamo proprio maglia nera tra le nazioni del mondo. Mi colpiva in questi giorni che si parla dell'IRE e di tutte le vicende, che l'IRE è un paese dove la popolazione al di sotto dei 30 anni è più del 70%, per cui con tutti i problemi che può avere questo paese, però un paese che punta sulla gioventù, è un paese che ha futuro, che ha speranza. Noi non solo non abbiamo dei ricambi necessari, io nel libro parlo del futuro Enea che avrà sulle spalle 4 anziani e nessun figlio per mano, e questo futuro non è tanto lontano. Ecco, noi non abbiamo assolutamente ricampi, e in più quella gioventù che abbiamo, ecco, la mortifichiamo perché li trasformiamo in precari a lungo termine, abbiamo trasformato la flessibilità in una precarietà continua, per cui li congeliamo in un limbo insopportabile nel momento in cui questi giovani possono dare il meglio al paese per quanto riguarda la loro professionalità e l'energia che hanno. Quindi non sappiamo neanche investire sui giovani. È un invito pressante che io faccio a chi governa questo paese, di investire sulla famiglia, investire sui figli, investire sui giovani, altrimenti non abbiamo assolutamente futuro, non abbiamo speranza. Ecco, in Italia i giovani si sposano sempre più tardi, l'età media del matrimonio è arrivata a 32 anni per gli uomini, a 29 per le donne, l'età del primo parto si è alzata fino a 32 anni, e questo comporta appunto che la nascita del primo figlio ritarda, e dopo il primo figlio molto spesso si esclude la possibilità di averne degli altri. Siamo in una una società in cui prevale il modello del figlio unico quando c'è. Ecco, questo comporta anche un cambiamento, comporta ed è causato anche da un cambiamento in fondo culturale, ma in cui hanno giocato molto anche le prospettive delle strutture, la mancanza di asili nido, la mancanza di sostegni familiari. In altri paesi anche vicini come la Francia la politica è stata molto diversa e ha influito anche sui modelli culturali, Don Shortino. Sì, credo che influiscano i modelli culturali, ma non basta questo a spiegare un basso livello di natalità, perché da indagini varie emerge che in Italia c'è voglia di famiglia, c'è voglia di figli, però si capisce bene che oggi mettere al mondo un figlio è una scommessa. Mettere al mondo due figli vuol dire fare scivolare subito la famiglia sulla soglia della povertà. Una donna oggi in Italia purtroppo è costretta a dover scegliere fra il desiderio di maternità e il lavoro, perché non ci sono servizi sociali sufficienti per garantire che una donna possa contemporaneamente svolgere il suo ruolo di mamma e al tempo stesso la sua professione. Tant'è vero che in Italia abbiamo il più basso tasso d'occupazione femminile in Europa. Ecco, in Italia c'è anche il più alto tasso di spesa pubblica per le pensioni, per gli anziani si spende molto, c'è un alto livello di welfare per gli anziani, anche se poi le pensioni medie sono anche basse, però non si riesce a fare una riforma che alzi l'età del pensionamento, per esempio, dato che peraltro si allunga fortunatamente la vita media e si possono spostare delle risorse verso i giovani, verso l'avviamento al lavoro, verso la formazione. C'è anche una resistenza a un cambiamento che però è sensibile, perché appunto l'allungamento della vita media comporta, fortunatamente diciamo, che ci sia un maggior numero di anziani che potrebbe partecipare anche maggiormente alla vita economica e alla vita sociale. In questo senso siamo una società in cui alcuni modelli di comportamento stentano a cambiare, Don Shortino. Sì, quello che non si dovrebbe assolutamente innescare è una guerra tra le generazioni, cioè togliere da una parte per dare un'altra. Invece bisognerebbe, a mio parere, perseguire la strada del patto tra le generazioni, in modo tale che ci sia una prospettiva che sia serena sia per i giovani sia per gli anziani. Certo, delle modifiche vanno fatte, ma vanno fatte considerando la famiglia come un'unità, non pretendo semplicemente ora gli anziani, ora i giovani. Quindi questo patto di generazione permette veramente che questo paese possa avere un ricambio di forze, un ricambio nel lavoro e una terza età più serena e più tranquilla, ma senza scatenare una guerra che poi alla fine è una specie di guerra tra i poveri per la povertà di risorse che sono a disposizione. In questo libro si parla molto di alleanze, di nuove alleanze. Per esempio l'alleanza tra scuola e famiglia sarebbe un rapporto da rendere più costruttivo, più aperto, anche come sostegno che la scuola può dare alla famiglia. Sì, io dico che questo patto anche tra scuola e famiglia in qualche modo si è rotto. La stessa figura istituzionale del docente ha perso oggi quel carisma che aveva in passato. Ma soprattutto c'è una frattura tra genitori e insegnanti. Nel libro io parlo ad esempio dei genitori che invece di essere alleati degli insegnanti per l'educazione dei ragazzi e dei figli si sono trasformati in una specie di sindacato dei figli, a difesa a volte di atteggiamenti e comportamenti non giustificabili come può essere bullismo, e abbiamo avuto tanti esempi di cronaca in cui dei ragazzi ripresi dagli insegnanti hanno avuto il sostegno dei genitori addirittura con azioni pesanti nei confronti dei docenti. Ora questo non sta bene, l'educazione dei ragazzi deve stare a cuore innanzitutto ai genitori e agli insegnanti, ma in un accordo comune. Questo quindi in una prospettiva, diciamo, di difesa della famiglia, di difesa della gioventù, di rilancio dei valori dello stare insieme della famiglia, quindi non solo, possiamo dire, della famiglia cristiana. No, il libro parla della famiglia tout court. Il titolo che l'editore ha voluto mettere è Famiglia Cristiana, perché giocava sul duplice significato della rivista che io dirigo è della famiglia cristiana, ma si parla della famiglia tout court, naturalmente visto anche con un'ottica cristiana, perché in un paese in cui tanto si parla di famiglia, in un paese come l'Italia, c'è un passo verso la fine, io dove dico si può considerare ancora cristiano un paese dove la famiglia viene così bistrattata, così maltrattata, non solo economicamente ma anche dal punto di vista concettuale, culturale. Ecco, quindi un libro che parla dei temi sociali, dei temi della famiglia, dei temi di una società che ha sì tanti problemi, ma conoscere questi problemi è già forse fare un primo passo per tentare almeno di risolverli. Io ringrazio Don Antonio Sciortino, direttore della Famiglia Cristiana, per il suo libro La Famiglia Cristiana, appunto, una risorsa ignorata, è edito da Mondadori a un prezzo di 17,50 euro. Buongiorno, bentornati al nostro appuntamento dedicato ai libri di economia. Abbiamo parlato nella prima parte con Don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, del suo libro che si intitola proprio Famiglia Cristiana, un libro però dedicato alla famiglia nella realtà sociale italiana e alle prospettive della società italiana secondo la particolare prospettiva appunto della famiglia. Cambiamo argomento, ma non cambiamo scenario perché parliamo sempre d'Italia, parliamo un po' del passato dell'Italia ma anche del suo presente. E lo facciamo grazie al libro Mister Ignis, scritto da Gianni Spartà. Buongiorno Spartà. Buongiorno Gianfranco. Gianni Spartà è giornalista, un collega della Prealpina, e ha scritto questo libro dedicato appunto a Mister Ignis. Chi è Mister Ignis? È Giovanni Borghi. Giovanni Borghi, un grande imprenditore degli anni 50 e 60, il fondatore di una delle prime grandi imprese italiane del dopoguerra, sorta nei dintorni di Varese appunto negli anni 50, si chiamava Ignis, è anche nota per aver sponsorizzato a suo tempo il ciclismo, il basket, che ha vinto tanti scudetti, quindi un grande imprenditore che ha lasciato il segno. Gianni Spartà ne ha descritto un po' la storia, una storia affascinante, e questo libro si avvale anche di una prefazione di Silvio Berlusconi, che ricorda di essere cresciuto anche lui nel quartiere Isola Garibaldi di Milano come Giovanni Borghi, che era lo zio non ancora famoso del mio amico, scrive Berlusconi, Fedele Confalonieri. Quindi è un tuffo nella storia degli anni 50, Spartà. Sì, è un tuffo nella storia degli anni 50, negli anni del miracolo italiano, gli anni nei quali gli italiani acquistavano la 600 del signor Fiat firmando pacchi di cambiali, e cominciarono anche a comprare gli elettrodomestici di Mister Ignis facendo altrettanto. Gli anni della crescita poderosa e dell'avventura, della grande intuizione di questo personaggio nato all'Isola Garibaldi, trasferitosi dopo la guerra in provincia di Varese, che a Comerio creò piano piano questo impero del bianco. Dapprima fece i fornelli a tre fuochi. Un giornale inglese scrisse che Mattei aveva dato all'Italia il gas e Giovanni Borghi gli aveva dato fuoco con i fornelli. Poi arrivarono i frigoriferi, poi le lavatrici e poi si creò questa grande azienda che poi nei primi degli anni 70 passò sotto le insegne della Philips, e vent'anni dopo, nel 1989, quindi siamo esattamente a vent'anni da quel fatto, è diventato il quartier generale europeo di Whirlpool, che è una grande azienda multinazionale che nella fabbrica di Borghi ha trovato le leve di comando del business europeo. Ecco, questa è storia attuale, tra l'altro l'ultimo capitolo di questa nuova edizione del libro parla proprio di questa nuova impresa, di questa impresa americana che si è appunto insediata in Italia e che sta sfruttando a fondo tutte le potenzialità del nostro paese. Ecco, questo capitolo si intitola A volte ritornano. Perché? A volte ritornano perché Giovanni Borghi aveva due modelli. Per l'industria aveva come modello la Fiat e Giovanni Agnelli, e per i consumi aveva come modello l'America. Pensate che nei primi degli anni 60 quest'uomo osò mettere in produzione a Cassinetta di Biandronno il frigorifero a due porte, lo costruì, ne fece 1000 pezzi, poi si dovette rassegnare al fatto che l'Italia era troppo povera per poter riempire un frigorifero di tale portata. Bene, gli americani che sono arrivati a Comerio nel 1989, nel 2002 hanno inaugurato la fabbrica di un frigorifero che hanno chiamato Side by Side, che ha ripreso di fatto questo progetto troppo precoce di Giovanni Borghi. È chiaro che il frigorifero a due porte in America c'era da tanto tempo, ma gli americani l'hanno riproposto in Italia, costruendolo proprio per tutta l'Europa, proprio nella fabbrica che c'è ancora di Giovanni Borghi, perché questa è una storia singolare. Le multinazionali normalmente arrivano, colonizzano, a volte distruggono e poi se ne vanno. Qui se ne sono arrivate due di multinazionali, prima la Philips e 20 anni dopo la Whirlpool, e sono rimaste lì, e le fabbriche che Giovanni Borghi aveva creato in Italia, a Siena, a Trento, a Napoli, fu uno dei primi imprenditori a investire a sud, e ovviamente anche a Siena e Viadrano, ci sono ancora, sono sempre lì, e un po' più magre ovviamente, perché non ci sono più i 10.000 dipendenti che c'erano a Cassinetto di Viadrono negli anni 60, ma l'avventura continua. Ecco, ci sono due elementi che questo libro mette molto bene in luce, della figura di Giovanni Borghi e della sua mentalità molto aperta, molto moderna per quegli anni, ed è l'apertura verso la comunicazione. Fu uno dei primi a sfruttare il carosello alla televisione, e l'apertura verso le sponsorizzazioni sportive, verso il ciclismo, verso il basket, verso la box quel tempo, e attraverso queste farsi conoscere e conquistare poi una popolarità per il suo marchio, per la sua azienda, per la sua fabbrica. E forse per questo che il Silvio Berlusconi imprenditore nella prefazione quasi si specchia in questo uomo molto più grande di lui, ovviamente cresciuto davanti a casa sua, all'isola Garibaldi, lì aveva il negozio, il primo negozio, che appunto intuì che si poteva fare comunicazione industriale sfruttando il grande veicolo pubblicitario dello sport. Tutti gli sport, in modo particolare lui amava il ciclismo, Poblet fu un suo pupillo, ma amò moltissimo la box, amò la pallacanestro, con la maglia della Ignis, la squadra di Varese ha vinto 10 scudetti, è stata campione d'Europa, del mondo, amò il calcio. E questo lo mise in contatto ulteriormente con la Fiat, perché ricorderete, la Fiat costruiva per Borghi i compressori che servivano a far funzionare i frigoriferi. Quando Anastasi, centravanti degli anni 70, degli anni 60 e 70, passò da Varese alla Juventus, il suo contratto fu pagato metà in contanti, 330 milioni di allora, e metà i compressori che servirono a Borghi per far funzionare i frigoriferi. Quindi si rinsaldò questo asse Varese-Torino. E tra l'altro Gianni Agnelli, che io ho avuto occasione di intervistare, erano proprio gli ultimi momenti della sua vita, definì Giovanni Borghi come il simbolo della più felice stagione dell'imprenditoria italiana. E la frase mi sembra significativa sia per i contenuti sia per l'autorevolezza. Insomma, il principe, l'ultimo principe dell'industria italiana, che consegnava la storia con queste parole, il figlio di un elettricista. Ecco, ma infatti c'è molta differenza tra l'avvocato, tra la sua dimensione internazionale, aristocratica in fondo nel mondo imprenditoriale, e Giovanni Borghi, che comunque era un ragioniere, che è rimasto di modi spicci, di modi in fondo molto provinciali, anche se aperto poi alla dimensione internazionale. Erano due figure certamente non simili, quella dell'avvocato e quella del commendator Borghi. Dissimili, sì, erano figure diverse, venivano da due mondi diversi, uno istruito, avvocato, l'altro aveva letto solo nel libro dell'esperienza, della vita, insomma, aveva questa. E poi era anche un personaggio così, come dire, col vocione grosso, le mani da strangolatore, come scrise Montanelli dipingendolo dicendo però ancora un po' che rimanevo in casa sua, ne sarei uscito con la maglia della Ignis sulle spalle, perché era talmente contagiosa la simpatia di Giovanni Borghi che io quel giorno che lo andai a intervistare, scrisse Montanelli, mi innamorai di lui e del suo entusiasmo, della sua capacità di fare. Ecco, forse era una capacità di fare che a un certo punto ha badato più all'apparenza, più appunto alla sponsorizzazione sportiva, alle grandi dimensioni, al fascino del successo, che non ai problemi reali della fabbrica. A un certo punto, come ricordi nel tuo libro, ha dovuto vendere agli olandesi della Philips. Per fortuna, io dico per fortuna, e in questo c'è un dibattito aperto. Io nel mio libro dico che grazie, per fortuna non intervenne lo Stato, per fortuna intervenne il mercato, e Borghi cedette l'azienda a quello che era il suo cliente principale, perché Borghi diventò grande facendo il terzista. creando non solo frigoriferi e elettrodomestici col suo marchio Ignis, ma anche con altri marchi, Filco, Fiat, Philips. Philips era il più grande cliente di Volga. A un certo punto gli olandesi dissero: caro signore, noi siamo stati per tanto tempo tuoi clienti, adesso vogliamo entrare nella tua azienda. E Borghi andò a chiedere consiglio ad Andreotti, il quale gli disse: caro commendator Borghi, sappia che prima o poi il pesce grande si mangia il pesce piccolo. Tant'è vero che la società tra Borghi e gli olandesi durò 2 anni, dopodiché il pesce grande impose la sua legge e si prese tutta la Ignis. Ma io dico per fortuna, perché gli olandesi portarono l'inglese, dove la lingua ufficiale era il dialetto, portarono il Sole 24 Ore, dove la lettura ufficiale era la Gazzetta dello Sport, portarono il management, portarono le filosofie nuove con le quali si dovevano condurre le aziende. Borghi aveva fatto il suo tempo e si era anche ammalato. Io dico, ebbe la capacità e la grande intuizione di cedere al momento giusto l'azienda. Ecco, un'azienda che stiamo un po' concludendo questo dialogo, attualmente appunto è americana, ma ha mantenuto in provincia di Varese il suo quartier generale, e pur con la modernità che è di un'azienda attuale, sta anche vitalizzando, mantenendo vitali le radici con il territorio locale. Certo, non li ha mai abbandonati, ma non solo, ma proprio per continuare la tradizione, quello che si chiamava Pala Ignis, il palazzetto dello sport, oggi si chiama Pala Whirlpool. In qualche modo la Whirlpool continua a sponsorizzare uno degli amori di Borghi, che fu la pallacanestro. E devo dire che la testa di questa azienda è in America, ma le radici sono profondamente nel territorio varesino, ecco, un'azienda che non ha mai tradito. Un dirigente una volta mi disse: sì, noi abbiamo le multilingue, noi abbiamo i grandi tech, i grandi esperti, i grandi manager, ma per fortuna c'è una fabbrica nella quale c'è qualcuno che sa tutto di un frigorifero, e questo continua a essere la nostra forza. E questa è una rilettura appunto di una storia che nasce da questo libro dedicato a Giovanni Borghi, Un sogno americano nell'Italia del miracolo, Mister Ignis, scritto da Gianni Spartà, che ringraziamo, edito da Oscar Mondadori, costa 12 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato.